versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, ben ritrovati se ci avete ascoltato anche se non Alessandro Milan con Attenzione 2 che è la parte finale di 24 mattina stamattina. Eccoci qua adesso per la versione di Oscar. Io vi dico subito di che cosa parliamo, oltre a ringraziarvi per l'ascolto in diretta o in podcast e ricordandovi l'indirizzo della versione di Oscar @radio24.it per proporre temi e critiche, ospiti o per proporre le vostre storie. Oggi stiamo sull'attualità perché è in corso, è iniziato questa mattina il 32esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati, quindi l'organo di rappresentanza che mette insieme tutti i diversi filoni culturali di rappresentanza delle varie correnti della magistratura. E il 32esimo congresso si svolge a Bari e c'è stato la relazione del presidente Rodolfo Sabelli, che è una relazione abbastanza d'attacco. Del resto l'Associazione Nazionale Magistrati ha un ruolo di intervento esplicito nel dibattito pubblico, cioè non si tira indietro tradizionalmente da molti anni, e ha due aspetti in particolare la relazione di Sabelli di cui parliamo oggi. Io intanto vi faccio una domanda, perché vi sintetizzo che cosa ha detto nel rapporto rispetto alla politica il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, poi ne ha avuto anche per le imprese e l'economia, e qui abbiamo un ospite con cui approfondiremo questo secondo aspetto. Ma sul rapporto con la politica è una relazione molto energica, per così dire, perché se si poteva immaginare che la tensione tra politica e magistratura, essendo al governo Renzi, la sinistra e così via, fosse per così dire fisiologicamente molto più bassa rispetto ai tempi dei governi di Berlusconi e della destra, e beh, i toni invece di LNM restano molto elevati. E comunque il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Sabelli ha detto: contro di noi c'è una strategia di delegittimazione. Quindi io intanto vi sintetizzo le frasi nel rapporto tra politica e magistratura di Sabelli e vi chiedo di intervenire su questo. Avete l'impressione davvero che ancora ci sia una strategia da parte del governo Renzi di delegittimazione della magistratura? O è un eccesso di reazione perché è stato toccato qualcuno dei privilegi dei magistrati? Ecco, mi piacerebbe che intervenisse soprattutto su questo. Poi naturalmente c'è anche il secondo aspetto, perché Sabelli ha detto: noi non vogliamo essere giudici e magistrati piegati alle esigenze delle imprese e dell'economia. E qui c'è una grande riflessione da fare, perché in questi anni sono venute molte vicende, l'Ilva, Fincantieri, Thyssen e così via, in cui è sembrato un po' l'opposto, cioè che ci fosse una magistratura che, a differenza di quello che avviene in tutti i paesi avanzati, OCSE e così via, interviene con delle fattispecie di reato, per esempio l'omicidio volontario in caso di incidente sul lavoro, e con progressive estensioni dei sequestri nella fase di indagini preliminari. Pensate a quanto è stata ampia l'estensione dei sequestri rispetto a quello che prevede il codice attualmente in vigore in tutta la vicenda Ilva, per cui hanno iniziato sequestrando gli impianti, poi gli input di produzione, le materie prime, poi le produzioni intermedie, poi i prodotti già realizzati, poi le superfici in cui erano stoccati i prodotti da vendere, poi, e così via. Hanno di fatto portato a una nazionalizzazione senza indennizzo dell'impresa ai Riva che l'hanno avuta, che la tenevano inutile, mentre adesso non sappiamo quanto perde, ma perde un tanto da che è nazionalizzata senza indennizzo e con i processi che devono ancora cominciare. Però su questo è stato molto duro. Ma prima di questo vediamo che cosa ha detto Sabelli nei confronti della politica. Le sue testuali parole sono queste: la tensione tra politica e magistratura, legata per anni a vicende giudiziarie individuali, si fa chiaramente riferimento ai processi di Berlusconi, quando Berlusconi era il governo presidente del Consiglio, ha finito con l'offrire di sé un'immagine drammatica, ma in realtà semplificata. Oggi, ha riconosciuto Sabelli, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, quei rapporti sono restituiti a una dinamica meno accesa nella forma. Cioè non ci sono più le polemiche dirette di un presidente del Consiglio verso questo o quel processo che lo riguarda, però la forma resta complessa, perché l'indipendenza della magistratura, ha detto Sabelli, non si alimenta di ossequio formale, ma di una cultura fondata sul rispetto. E ha continuato Sabelli: in realtà ci sono molte tensioni nuove che appunto identificano una mancanza di rispetto fino a una vera e propria delegittimazione della magistratura. Noi non rinunciamo a difendere, ha detto, le nostre prerogative, i nostri diritti funzionali alla tutela del principio di indipendenza, e ha fatto chiaramente riferimento a quel punto alla delegittimazione che ha addossato nel corso dell'intera estate, per tutto l'anno, alla magistratura le sue obiezioni alla riforma e agli interventi ordinamentali, come se fossero invece dettate dal motivo, ve lo ricordate, di difendere i giorni di ferie dei magistrati rispetto al resto della pubblica amministrazione. Dopodiché, ha detto Sabelli, non sono mancati sullo status dei magistrati interventi discutibili nel merito, nel metodo, nei tempi che hanno preceduto persino quelli delle riforme tuttora irrealizzate del processo e dell'organizzazione giudiziaria, e che, unite a demagogiche semplificazioni, hanno aggravato il diffuso malcontento dei magistrati già sofferenti per il peso di carichi di lavoro, dalle crescenti responsabilità e delle carenze di risorse. La magistratura italiana non è un ceto elitario e oligarchico, e la percezione delle istituzioni dello Stato come gruppi di potere gelosi dei propri vantaggi costituisce in se stessa una tragedia del sistema democratico. Quindi sono parole molto dure rivolte al governo. C'è solo un primo commento da parte del responsabile giustizia del PD, Ermini, che dice: sono parole ingenerose, noi stiamo tentando di acchiappare qualche parlamentare che si occupi all'interno del PD o in Parlamento di giustizia, per vedere come rispondere a questo attacco, che è un attacco che segna, dal punto di vista del rapporto tra governo e magistratura associata, forse il punto più basso da che il governo Renzi è a Palazzo Chigi. Sulle imprese, che cosa ha detto invece? E veniamo, per introdurre l'ospite, poi una riflessione su questo. Ha detto testualmente: va respinta l'idea che a minori controlli della magistratura corrisponda una maggiore crescita dell'economia. Così, ha detto Sabelli, si va verso la subordinazione della politica e della giurisdizione al potere economico, in una pericolosa prospettiva tecnocratica. E quindi, continuando su questo tema della tensione tra giustizia e economia, che si acuisce nei tempi di crisi e diventa drammatica quanto più alto è il grado dei diritti in gioco, ha detto sempre Sabelli, e quindi si è riferito alle inchieste in materia di inquinamento, sicurezza nelle fabbriche, rapporti di lavoro, ha continuato dicendo: c'è una vera e propria insofferenza verso le iniziative giudiziarie che vengono bollate come autoreferenziali, lesive degli interessi economici, espressione di ideologie radicali, quasi che la giustizia fosse parte di un sistema di poteri in conflitto e non invece il mezzo garante della tutela dei diritti. Allora, parole molto dure anche su questo tema. Allora, per riflettere, intanto che telefonate per dirci se vi riconoscete nelle parole dure nei confronti della politica e del governo Renzi usate dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, parliamo un secondo su questo secondo aspetto dei rapporti con le imprese. Ed abbiamo con noi Antonio Calabrò, manager, vicepresidente di Assolombarda, Confindustria Milano, Monza, Brianza, che ha la delega appunto alla legalità e alla responsabilità sociale d'impresa. Buon pomeriggio e grazie Antonio di essere con noi. Buon pomeriggio, Oscar, grazie a voi. Allora, che impressione ti fanno parole così dure da parte del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che parla di reazione di impresa tanto dure a procedimenti giudiziari come quelli che lui descrive in difesa dei diritti? Guarda, io credo innanzitutto, come metodo, Oscar, che le polemiche tra una grande istituzione dello Stato, la magistratura, è un motore fondamentale dello sviluppo. Le imprese siano polemiche da evitare il più possibile, non perché non ci siano discussioni aperte da fare, ma perché è necessario lavorare insieme sulla crescita di questo paese. E questo è un primo elemento di fondo. Parlarsi di più e capire di più. Da tempo, per farti un esempio concreto, a Solombarda, la Corte d'Appello e il Tribunale di Milano stanno lavorando per capire anche quali sono le reciproche esigenze, le reciproche culture e i reciproci linguaggi. Convinti come siamo che sia necessario costruire un meccanismo di collaborazione. Il Tribunale per le Imprese è un elemento di specializzazione in cui i magistrati, da non lasciare soli in alcune iniziative, si rendono conto di quali sono le esigenze dell'economia. Lungi dalle imprese pensare che gli interessi economici debbano essere prevalenti rispetto alla giurisdizione. E semmai è forte consapevolezza delle imprese sapere che una giustizia efficiente ed efficace, ripeto, efficiente ed efficace, è un fattore fondamentale di crescita e di competitività del paese. Le accuse di Sabelli sono molto forti e molto gravi. Io so bene che sono stati degli elementi di tensione, penso a tutta la vicenda Ilva, penso anche che nella vicenda Ilva il magistrato intervenga alla fine di carenze e di mancanze di responsabilità da parte degli altri organi. In questo Sabelli sembrava quasi fare esplicito riferimento in una parte successiva del suo intervento, ma sempre nel rapporto molto difficile, lui lo ha definito così, con le imprese e l'economia, sembrava proprio fare esplicito riferimento a quello che sta dicendo adesso Calabrò, e dice: noi dobbiamo intervenire con misure che sembrano talora abnormi, come i sequestri, la chiusura di impianti, il blocco che naturalmente suscita la reazione degli occupati, dei sindacati e così via, per l'evidente mancanza dei controlli di organi amministrativi, l'ha detto proprio esplicitamente. E questo è un passaggio fondamentale. L'altra cosa, io penso molto all'esperienza fatta a Milano. A Milano il dialogo ha reso possibile rispettare sia le norme contro l'inquinamento sono norme fondamentali, sia le esigenze delle imprese. Bisogna capire che non ci sono primati, ma ci sono esigenze di convergenza. Ed è un punto di dialogo molto importante. L'abbiamo fatto con la Corte d'Appello, con il Tribunale, per esempio, sulle misure antimafia. Abbiamo ragionato su quali sono le scelte da fare, nel pieno rispetto delle prerogative, delle riforme, della responsabilità della magistratura, ma anche degli interessi degli imprenditori, dei loro dipendenti e dei loro fornitori, a non bloccare processi economici. Da questo punto di vista, commissariamenti e radicali possono non essere la misura opportuna, a meno che non si intervenga mettendo dei manager che sappiano gestire la condizione di emergenza e di crisi. Alcuni sostengono, hanno scritto in occasione delle vicende che più hanno poi interessato le cronache e che ancora oggi sono problemi irrisolti, perché guardate che, cari ascoltatori, il problema dell'Ilva Taranto è una delle piaghe, ohimè, più aperte e sanguinolente del gap meridionale. Hanno scritto che quando ci sono interventi su imprese di quella complessità, ma anche di quel rilievo, quella era un'acciaieria che era la maggiore in Europa per quel tipo, la seconda in Europa per quel tipo di lavorazione a ciclo continuo, e stavamo parlando di un gruppo che era quinto al mondo, adesso non c'è più praticamente, e abbiamo drammaticamente aumentato le importazioni di quell'acciaio che ancora consumiamo, anche se il consumo è molto diminuito in Italia in questi anni di crisi. Però alcuni hanno sostenuto di fronte a questo che la specificità dei problemi di alcune imprese imporrebbe, o meglio consiglierebbe, di avere pronunzie che invece di dipendere dalla valutazione di questo o quel magistrato si concentrassero in giudici, come devo dire, specializzati, non solo a quel punto diritto d'impresa dal punto di vista societario, ma anche proprio per valutare che tipo di misure cautelari, per saperne ben giudicare l'impatto poi che queste hanno sull'economia, non solo dell'impresa, della città, della regione, di un pezzo d'Italia, sugli occupati, sul reddito. A questo i magistrati, anche oggi Sabelli, dicono no, perché non spetta a noi fare questo tipo di analisi, cioè la giustizia deve intervenire in ordine a ciò che dice la legge rispetto a quello che il magistrato, se in fase di indagine cautelare, come veniva l'Ilva e viene l'Ilva, deve giudicare in base alla legge su quello che sta avvenendo lì. Noi non possiamo farci frenare da conseguenze di questo tipo. Allora, siccome è una questione di principio, cosa si risponde al giudice che dice: non potete chiedere a me l'effetto economico di quello che le mie ordinanze sono in grado di ottenere, perché io mi devo occupare del fatto che l'ordinanza ai miei occhi è giusta, e se il GUP me la conferma si blocca tutto. Come si risponde a questo tipo di impostazione, Calabrò? Si risponde, torno all'esempio milanese col Tribunale delle Imprese, strutture specializzate che sono in grado di valutare e la norma e l'applicazione. La norma può essere applicata in più modi, bisogna applicarla nel modo che, ferma restando la norma, renda l'impresa in condizione di poter continuare a vivere. Aggiungo una cosa, Oscar, ed è questa: i magistrati e le imprese sono di fronte spesso a norme complesse, mal scritte, di difficile applicazione. Molti conflitti tra poteri, il potere della magistratura e l'esigenza delle imprese, nascono da cattive norme. Da questo punto di vista, una semplificazione dell'apparato normativo che vale per l'ambiente ma vale molto anche per il fisco sarebbe benvenuto. Tieni conto che in buona parte degli investimenti internazionali non arrivano in Italia per complessità dell'apparato normativo, non della struttura giudiziaria. Infatti, dicevo poco fa, hanno lasciato i magistrati soli di fronte a compiti più grandi loro. E non perché loro siano individui non adatti, ma perché la complessità delle cose non sono spesso in condizione di poterli valutare. A me, devo dire la verità, adesso lo dico agli ascoltatori, a me piace molto questo modo di rispondere ai duri argomenti di Sbella dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, perché non avverto nella risposta di Calabrò la cosa delle imprese che dicono: no, ma insomma, che razza, cioè, è una cosa per dire, signori, dobbiamo trovare il modo che i magistrati facciano tutto quello che sono chiamati dai codici della legge a fare, ma contemporaneamente di poterlo fare valutando anche le conseguenze, non per frenarsi e per non assumere tutti i provvedimenti che ritengano opportuni, però per poter valutare. Allora, la tecnica della specializzazione del giudice, secondo me, invece di metterla sull'attacco all'indipendenza della magistratura, potrebbe essere una via ragionevole da questo punto di vista. Allora, intanto io ringrazio Antonio Calabro per questa riflessione che risponde a una parte delle cose che troverete domani sui giornali dette all'inaugurazione del congresso dell'Associazione Nazionale dei Magistrati. Lo saluto, lo ringrazio e poi dopo l'interruzione veniamo alle vostre telefonate su invece sulla parte politica, quando dice col governo Renzi la delegittimazione della magistratura ha cambiato forma ma resta ed è durissima. Vediamo come la pensate su questo. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16:48 primi e 18 secondi. Abbiamo tratto spunto dall'intervento di apertura del congresso dell'Associazione Nazionale dei Magistrati del suo presidente Sabelli. Un intervento che ha una parte dura verso l'economia e le imprese, molto dura anche sulla politica e sul governo Renzi, dicendo la delegittimazione nei confronti della giustizia e dei magistrati ha cambiato forma, ma resta durissima. Allora, moltissimi commenti da parte vostra sugli sms. Io mi aspettavo, insomma, su magistratura e politica, che è un refrain di 20 anni italiano, un po' di invece no. Devo dire, moltissimi dei messaggi che arrivano sono in un primo filone che dice: i giudici casta autoreferenziata che appena li si tocca reagiscono male in nome dell'indipendenza. Alcuni si riferiscono anche però al merito di quello che dice Sabelli sul governo Renzi. Alcuni di voi dicono: in effetti resta da parte di Renzi un atteggiamento nei confronti della magistratura che altri presidenti del Consiglio del centro-sinistra non avrebbero avuto, in particolare su questa storia delle ferie che ha colpito molti, anche di voi in ascolto, e non sono noi giornalisti che ce ne siamo dovuti occupare. Un numero minore interviene sulla questione invece dei rapporti con l'impresa e l'economia, e alcuni di voi dicono: è un po' difficile buttare giù che un giudice da solo dice in nome della giustizia non posso occuparmi di quanta gente mando sul lastrico, se sono lavoratori, non gli imprenditori proprietari dell'impresa. E questo capisco che sia una considerazione ragionevole da parte di molti di voi, è esattamente quella che però molti magistrati dicono: noi non possiamo occuparci di questo tema, che mi pare una posizione un po' incomprensibile da parte mia. Nicola da Bologna, vediamo come la pensa Nicola. Buongiorno Giannino. Il problema è questo: nessun magistrato viene eletto, quindi un politico comunque è eletto dal popolo, e i magistrati sono autoreferenti, non pagano mai per i loro errori e ne hanno fatti tantissimi. Quando poi li tocchi su qualcosa, guai a Dio, perché loro sono intoccabili. No, bisogna cominciare a essere controllati, perché tutti noi poveri mortali paghiamo delle conseguenze delle nostre azioni. I magistrati no, questo non va bene, e ora che anche loro vengono messi un pochino in riga sotto controllo. Naturalmente, Nicola, lei lo sa che le espressioni precise che ha usato, cioè mettere in riga, sotto controllo, eccetera eccetera, provocherebbe dal suo punto di vista, più che giustamente, da un qualunque magistrato a qualunque corrente opinione di pensiero appartenesse, una reazione durissima, dicendo: lei sta dicendo, caro Nicola, che la magistratura deve perdere la sua autonomia e indipendenza, che è un presidio costituzionale a tutela del cittadino oltre che della giustizia. Quindi il problema è che quando lei dice in riga sotto controllo, a che cosa cosa si riferisce? Al fatto che secondo lei dovrebbero rispondere civilmente di più dei loro errori, oppure bisognerebbe valutarli in maniera diversa per il progresso di carriera e non solo per l'anzianità, che è uno dei punti aperti proprio della riforma ordinamentale? A quale di queste cose si riferisce, Nicola? Alla prima, il fatto che i giudici, se commettono degli errori, devono pagare delle conseguenze che loro fanno. È troppo comodo dire io sono un magistrato e non pago le conseguenze. Io sono un ingegnere. Allora, Nicola, questo guardi, non deve convincere me, però le rispondo proprio di fronte agli interessi per miliardi di euro del caso Ilva. Il pubblico ministero, pubblico ministero che ha chiesto e ottenuto quell'estensione progressiva dei sequestri che ha portato i governi a intervenire, la Corte Costituzionale a pronunciarsi tre volte e così via, le risponderebbe se fosse qua: caro Nicola, ma se io avessi avuto la minaccia di azioni risarcitorie per miliardi, io non avrei potuto in serenità assumere i provvedimenti che ho assunto. E lei cosa risponderebbe, Nicola? Risponderei che 6.000 dipendenti sono certamente da tutelare, ma piuttosto che un magistrato che... Ecco, ma infatti, Nicola, come vedete, secondo me dà delle risposte, per così dire, ragionevoli. Bisognerebbe provare a ragionare invece che continuare a fare la guerra. Francesco da Napoli, come la pensa? La penso completamente in un modo diverso. Sì. Ora, a prescindere che non mi è piaciuto come ha introdotto, perché praticamente ha dichiarato che la stragrande maggioranza della magistratura ha una visione di sinistra delle cose. Io ho detto questo. Dicendo col governo Renzi magari si erano abbassati i toni. No. Ha avallato questa ma io non ho avallato niente. Io ho letto la sintesi che c'è su Repubblica dell'intervento di Isabelli. Guardi, io non avallo, ci mancherebbe altro. E se, tutti i giornali, se guarda i siti, riferiscono al governo attuale le parole di Isabelli, e le sono parole inequivocabili. Io non attribuisco a nessuna opinione. Comunque, chiarito questo, come la pensa, Francesco? Allora, ma penso ci sono due modi per risolvere il problema. Il fatto è che il discorso di avere un impatto su aziende grandi e di non tutelare i lavoratori di queste aziende, io non so come, da un punto di vista solo di principio, si possa pensare di adottare due metri e due misure. Due misure, nel senso che se fosse un privato singolo cittadino ad avere inquinato e a aver un'area, sicuramente non c'è più bisogno di un tribunale speciale per condannarlo, mentre ci sarebbe bisogno se è un'azienda di 6.000 persone. Questo, secondo me, in linea di principio, non lo reputo giusto. Potrebbe essere risolto invece da una classe politica che le leggi le fa, perché la magistratura le fa solo rispettare e non le fa lei, una classe politica più degna e più tecnica, se vuole, o comunque perlomeno che faccia delle leggi che funzionino. Francesco, le leggi che funzionano però, in quel caso, ripeto, le autorizzazioni ambientali, la loro attuazione nel tempo e così via, era un processo di verifica amministrativa, non è che non ci fossero le norme, quindi il problema è che arriva il giudice e dice no, chiudiamo e sequestriamo tutto, e il problema non è il giudice speciale nel nostro ordinamento è proibito, e la specializzazione delle competenze che è diversa dal giudice speciale, non è che dice a te uno, a te un altro. Comunque, detto tutto questo, ancora, Angelo da Milano, come la pensa? Sì, Giannino, buongiorno. Sì. Salve. Senta, come al solito, secondo me ci si dimentica di quello che vedono gli italiani. Cioè, l'italiano medio, diciamo che ha avuto esperienze negative con la magistratura, almeno nelle sue conoscenze, parenti, amici, ha avuto delle esperienze negativissime, e questo è innegabile. In più ci sono tutti i casi che ci porta la stampa, la televisione, che ci porta a conoscenza, il giudice che dice dovete prevedere i terremoti, quell'altro che dice sì, ecco, dovete far fare l'ecografia. Quindi lei dice non si può stupire se alla fine poi non sono solo eroi, certo, questo lo capisco. Comunque il problema è enorme, perché abbiamo un mucchio di interventi che naturalmente io devo chiudere, e quindi io purtroppo mi scuso con chi non può intervenire, ma la trasmissione finisce qua. Io vi do appuntamento domani dalle 10 alle 12 con i conti della Belva, perché domani ci occupiamo ancora del canone Rai, ancora della vicenda di Sanremo, dei dipendenti pubblici. Cosa vuol dire la vicenda di Sanremo? Che il 30-40% dei dipendenti pubblici in realtà è di troppo, e ci occuperemo anche di tante altre cose, del rischio che c'è sulle banche italiane. Comunque domani dalle 10 alle 12, intanto continuate con Radio 24.